Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi è il gran giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II e in questa occasione vi segnalo due libri. Il primo è quello di Andrea Riccardi, che è il fondatore della Comunità di Sant'Egidio e si intitola Giovanni Paolo II, la biografia, pubblicato da San Paolo, 562 pagine, 24 euro. Questo è un libro denso e importante anche per l'autorevolezza delle fonti, perché l'autore ha sentito innanzitutto lo stesso Giovanni Paolo II, col quale aveva avuto numerosi colloqui, il suo successore Benedetto XVI, il segretario personale del Papa defunto, e cioè l'attuale cardinale Dizwitz. E questo libro vuole offrire un ritratto a tutto tondo di un personaggio così complesso e straordinario come fu Giovanni Paolo II, che certamente ha segnato la storia del Novecento, ma che non può essere letto soltanto come un personaggio politico. Sentiamo per esempio alcuni tratti di questa personalità complessa che vengono espressi in un brano del libro di Riccardi, che propone appunto anche un confronto tra Wojtyła e Ratzinger. L'incipit della vicenda intellettuale di Carol è quello del poeta e del drammaturgo, oltre che dell'uomo di fede. Da teologo o filosofo non crea un sistema, né si identifica con un metodo o una specializzazione accademica. Tanto si è studiata la figura del Papa, ma poco si è considerato il poeta o l'approccio da poeta e drammaturgo che caratterizzano Wojtyła. Tanto apprezzamento e insistenza come poeta durante il suo pontificato sarebbero sembrati quasi piaggeria cortigiana verso il Papa, oppure sarebbero apparsi come una visione riduttiva o sentimentale del suo pensiero. Ma Wojtyła è un intellettuale complesso, letterato, poeta e drammaturgo, che negli anni 50 ha sviluppato una cultura filosofica di cui aveva già posto le premesse nello studio seminaristico e poi tomista a Roma. Attratto dalla mistica, non è uno specialista che attraverso una disciplina arriva a una visione più ampia. Non è mancato chi, come Giuseppe Alberigo, notasse le differenze dell'itinerario culturale di Joseph Ratzinger da quello di Karol Wojtyła, tanto da affermare ironicamente che il rapporto tra i due fosse quello tra un professore tedesco e uno polacco, sottolineando la solidità del primo rispetto al secondo. La teologia di Wojtyła, estranea a una dimensione accademica o specialistica, non sistematica, è quella di un vescovo che pensa e predica, ma anche di chi, in ogni aspetto della cultura e della vita, si pone il problema di Dio. L'altro libro su Giovanni Paolo II è quello di Cristina Siccardi, che è l'autrice di molte biografie di successo. Si intitola Giovanni Paolo II, l'uomo e il Papa, è pubblicato dalle Paoline, 222 pagine, 22 euro. Come spiega il sottotitolo, si intrecciano qui le due parabole, quella dell'uomo e quella del pontefice. Del resto, spiega l'autrice, Giovanni Paolo II rimase Karol Wojtyła, anzi in questo Papa Karol Wojtyła prevale su Giovanni Paolo. Questa è una citazione di un grande vaticanista, e cioè Luigi Accattoli. Seguendo questa chiave di lettura, appunto, Siccardi sviluppa la presentazione della vita di Giovanni Paolo II, sulla quale ci dirà adesso alcune parole. Buongiorno a Cristina Siccardi. Buongiorno. Cristina Siccardi, il suo libro su Giovanni Paolo II si conclude proprio con un capitolo intitolato Santo subito. Adesso siamo quasi arrivati a questa tappa in tempi rapidissimi, per l'appunto. Che cosa rappresenta nella storia della Chiesa, non soltanto degli anni recenti, questa rapidità nella beatificazione di Giovanni Paolo II? Ma potremmo dire che è una rapidità dovuta essenzialmente alla popolarità di questo pontefice, che è rimasto in definitiva sempre Karol Wojtyła, cioè più che Giovanni Paolo II è rimasto l'uomo, no? Come anche il titolo del libro, l'uomo e il Papa. Come egli stesso diceva anche ai suoi amati giovani, chiamatemi Karol. Questa popolarità appunto ha fatto sì che una popolarità mondiale, potremmo veramente dire, anche grazie ai mass media che sicuramente hanno dato un supporto notevole a questo Papa, perché in effetti per la prima volta, potremmo dire proprio nella storia della Chiesa, i giornalisti, i pubblicisti, la pubblicistica, gli editori, hanno sostenuto Giovanni Paolo II, e lo stesso Giovanni Paolo II è riuscito a instaurare un feeling preferenziale con i giornalisti, e questo ha fatto indubbiamente veramente scattare un meccanismo di grande popolarità, tanto che nel 2005, quando venne a mancare ai suoi funerali, fu un vero trionfo, tra l'altro furono esequie dove si manifestò un vero trionfo e 2 milioni di persone si riversarono a Roma e molti fecero esplicita e pubblica richiesta con dei cartelli di poterlo innalzare subito all'onore dell'altare. Nel suo libro lei insiste molto su un aspetto particolare del pastore Wojtyła, cioè il fatto che egli sia stato un vero interprete del Concilio Vaticano II. In un altro punto scrive: il vescovo Wojtyła recepì il Concilio Vaticano II così bene da incarnarlo totalmente. Ecco, che cosa ha rappresentato nella storia di Wojtyła questo rapporto con il Concilio? Indubbiamente noi, appunto, abbiamo studiato proprio in Polonia le sue radici, la sua formazione anche proprio ecclesiastica, e si è proprio riscontrato questo suo grande entusiasmo quando venne aperto il Concilio Vaticano II. E facendo poi ritorno nel 1965 alla chiusura del Concilio, facendo ritorno appunto nella sua terra e da vescovo e da arcivescovo di Cracovia, applicò in toto il Concilio Vaticano II, un concilio pastorale, e in effetti noi vediamo in lui, in Karol Wojtyła, nell'arcivescovo prima, nel Papa dopo, il pastore, cioè la personalità che ha applicato a 360 gradi il concilio pastorale, ed è stato invece venuto meno il discorso del governo, e attraverso appunto gli studi di storici che appunto abbiamo potuto esaminare eccetera, si è riscontrato questo limite tra virgolette, no? di uomo di governo, e in effetti anche durante il pontificato egli fu spesso fuori dalla sede di Roma e fu lasciato, delegato tutto alla curia romana, e appunto dedicò gran parte del suo tempo proprio ai viaggi apostolici per i vari paesi appunto del mondo, ed ecco che in questi paesi ha suscitato grande clamore, grande entusiasmo, anche proprio e soprattutto in virtù della sua grande umanità. Ricordiamo che Giovanni Paolo II amava il teatro, si era formato sulla letteratura polacca, sugli autori drammaturghi del polacchi, ed era stato un valido attore, ecco, in gioventù. E ecco perché il suo grande trasporto per le folle e questo feeling che riuscì a stabilire proprio tra lui stesso e le masse. A differenza che in altre biografie, lei insiste relativamente poco sul ruolo che Giovanni Paolo II ha avuto in occasione della caduta del comunismo, anzi lei insiste molto sull'anticapitalismo di Wojtyła. Peraltro il mercato era stato relativamente assolto nelle encicliche sociali di Wojtyła. Ecco, come mai questa insistenza sull'anticapitalismo nel suo libro e invece una minore attenzione sul ruolo sulla caduta del comunismo? Ecco, perché la formazione di Giovanni Paolo II non è una formazione, potremmo dire, politica. Il suo pensiero non è un pensiero politico. Egli subì le due grandi tragedie della Polonia, cioè la dominazione prima nazista e poi quella sovietica, e non si occupò mai esplicitamente di politica, ma di pensiero politico. Abbiamo dato maggiore rilievo a questo suo anticapitalismo perché in effetti in tutti i suoi documenti e in gran parte dei suoi discorsi, delle sue omelie, ecco, egli insiste soprattutto su questo discorso del capitalismo sfrenato contro appunto il consumismo e a favore invece di un terzo mondismo, no? Di un andare incontro ai poveri e agli ultimi. Anche se fu fortemente contrario alla teologia della liberazione e a tutti questi fenomeni. Sì, Sicuramente, in effetti non bisogna dimenticare questo suo grande freno che diede alla teologia della liberazione. Non ci furono, diciamo, delle azioni eclatanti, ma indubbiamente operò contro questo gravissimo fenomeno della teologia della liberazione, che era appunto politicizzata, una chiesa sudamericana che si era politicizzata verso opinioni di sinistra e marxiste soprattutto. Bene, grazie a Cristina Siccardi, autrice di Giovanni Paolo II, L'uomo e il Papa. Buona domenica. Grazie a voi. E adesso vi segnalo due libri del successore, quindi di Benedetto XVI, Josef Ratzinger. Il primo è Luce del mondo, il Papa, la Chiesa, i segni dei tempi. Questa è un'intervista che Benedetto XVI ha concesso al giornalista tedesco Peter Seybald. È pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, 284 pagine, 19,50 €, e l'edizione italiana è curata da Pierluca Azzano. Questo è un libro interessante per il brio con il quale il giornalista conduce il pontefice, con il quale ha avuto una lunga frequentazione, a pronunciarsi dinanzi ai grandi problemi di oggi, che Ratzinger legge sempre con lenti, oltre che da papa e da religioso, da filosofo e da teologo. Sentite per esempio queste parole di un aspetto di grande attualità dinanzi al quale credo che tutti possiamo riflettere. La vera minaccia di fronte alla quale ci troviamo è che la tolleranza venga abolita in nome della tolleranza stessa. C'è il pericolo che la ragione, la cosiddetta ragione occidentale, sostenga di avere finalmente riconosciuto ciò che è giusto e avanzi così una pretesa di tonalità che è nemica della libertà. Credo necessario denunciare con forza questa minaccia. Nessuno è costretto ad essere cristiano, ma nessuno deve essere costretto a vivere secondo la nuova religione, come fosse l'unica e vera, vincolante per tutta l'umanità. L'altro titolo più recente è la seconda parte del libro Gesù di Nazareth. Questo riguarda il periodo dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, sempre pubblicata dalla libreria editrice Vaticana, 348 pagine, 20 €, e la traduzione curata da Ingrid Stampa. Come spiega l'autore, il Papa, anzi Josef Ratzinger, egli non vuole in questo libro scrivere una vita di Gesù, ma comprendere la figura di Gesù, la sua parola e il suo agire, e promette, e se gli sarà data ancora la forza, aggiunge l'autore, un piccolo fascicolo sui primi anni di Gesù, quelli dell'infanzia che non sono stati trattati in questi due volumi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Voglio innanzitutto ricordarvi che a Milano è in corso fino al 12 giugno la mostra dedicata a Alberto Savinio, la mostra intitolata La Commedia dell'Arte, curata da Vincenzo Trione. Si svolge a Palazzo Reale ed è organizzata da 24 Ore Cultura, che è una società che appartiene al gruppo editoriale al quale appartiene anche questa radio. In questa occasione, l'ho già fatto ma lo ripeto, vi propongo un gioco che consentirà di vincere agli ascoltatori più fortunati due ingressi e un catalogo della mostra. Per partecipare le regole sono semplici: i primi due ascoltatori che invieranno un SMS al numero 349238666, ripeto 349238666, riceveranno un kit ciascuno. L'SMS dovrà contenere queste indicazioni: nome, cognome e la parola Savinio, per far capire naturalmente che si sta partecipando a questo gioco. In bocca al lupo. Torniamo ai libri, parlando di un difficile rapporto, quello tra i genitori e i figli adolescenti, sempre più mediato o complicato oggi dalla presenza di un ingombrante terzo incomodo, la tecnologia e i nuovi mezzi di comunicazione che rendono spesso appunto problematico un contatto già difficile per ragioni anagrafiche. Allora vi segnalo a questo proposito il libro di Alessandro Schwed, che è il nome autentico di uno degli umoristi del male, allora noto con un altro nome. Mio figlio mi ha aggiunto a Facebook. Il libro è pubblicato dall'Ancora del Mediterraneo, 190 pagine, 14,50 €. In realtà Facebook è soltanto un episodio nella difficile condizione del padre di un adolescente, e questa è l'esperienza che racconta appunto di una adolescenza da scoprire, una scoperta che colpisce sempre come una mazzata e che viene così descritta in questo libro. Come prevedere l'adolescenza? La sua incubazione avviene fuori dal nostro sguardo, una cosa segreta anche a loro. La tremenda mutazione accade di notte, quando nessuno vede le ossa smaniose proliferare, i sogni affiorare da certi movimenti delle ciglia, e culmina nel cambio perenne del corpo, della voce, della mente, delle abilità. Tutto accade di nascosto, come se i preparativi per la partenza di un'astronave avvenissero in punta di piedi e una mattina la gente intorno fosse svegliata da un boato e vedesse che poi il furgone del latte era il razzo spaziale che sta solcando il cielo. Ma dove si svolgono oggi le nuove forme di aggregazione? Beh, evidentemente sulla rete, su network, su internet, l'agorà virtuale è dove fioriscono i social network. E questi vengono studiati nel libro di Giuseppe Riva, che è uno psicologo della comunicazione alla Cattolica di Milano, i social network, pubblicato al Mulino, 192 pagine, 13 euro. Per chi ancora non sa che cosa siano i social network, questa è una guida molto documentata e puntuale che descrive un fenomeno ormai di massa e che, nota l'autore, ha introdotto nuovi modelli di comunicazione, creando modalità di interazione che si differenziano drasticamente dalla tradizionale comunicazione faccia a faccia. L'impiego dei social network, aggiunge, sta trasformando il rapporto esistente tra soggetto e tecnologie informatiche. Grazie a essi, infatti, internet sta perdendo la propria connotazione di esperienza basata sul personal computer, integrandosi progressivamente anche negli altri media, in particolare televisione e telefono cellulare. Le ragioni del successo planetario dei social network sono principalmente due. Innanzitutto, dice l'autore, perché i social network vengono utilizzati per soddisfare diverse categorie di bisogni: sicurezza, associazione, autostima, autorealizzazione. E poi, aggiunge, la seconda ragione è che i social network stanno avendo un ruolo crescente nel permettere e supportare il processo di seduzione e la nascita di relazioni interpersonali, e così esse diventano delle vere e proprie reti creative. Il tema delle sollecitazioni delle trasformazioni sull'individuo che i nuovi media stanno determinando è affrontato nel libro di Luca De Biase, che è un caporedattore del Sole 24 Ore, Cambiare pagina per sopravvivere ai media della solitudine, pubblicato da Rizzoli, 334 pagine, 11 euro. Ormai il rapporto tra media e sistema circostante è determinante, anzi costitutivo. Come scrive l'autore, la televisione si appropria del salotto o della cucina, la nicchia ecologica che in precedenza era stata della radio, e questa si salva in automobile, la sua nuova nicchia ecologica. I giornali di carta coevolvono con il pubblico attivo su internet, i motori di ricerca appaiono sulla scena come un nuovo stadio dell'evoluzione della specie, dimostrandosi particolarmente adatti a vincere. E allora l'autore parla di un ecosistema dell'informazione e ci insegna come muoverci, ci spiega come cambia il mestiere dell'informazione, come cambia la funzione del fruitore, che ormai è diventato anche facitore, produttore di notizie, e infine affronta il tema drammatico per tutti noi che lavoriamo nei giornali del futuro dei media, in particolare dei giornali, e sviluppa questo suo ragionamento in 9 capitoli intitolati Domande, Spazio, Tempo, Rilevanza, Attenzione, Qualità, Progetto, Identità, Prospettiva, per concludere che non c'è solo la tecnologia che conta. Sicuramente le tecnologie stanno cambiando tutto, ma, aggiunge De Biasi, un'alleanza con le vecchie identità dell'antico regime mediatico che la congiuntura ha messo in crisi potrebbe essere proprio la soluzione alla crisi di cui si parla. E l'alleanza, spiega, avverrà probabilmente su un terreno comune. Potrebbe essere quello di una comune definizione della qualità standard dell'informazione. Insomma, bisogna, conclude, far progredire l'idea di progresso. Dopo tanta virtualità vi propongo un solido libro sul libro, un classico pubblicato per la prima volta nel 1958 che ritorna nell'edizione La Terza. Il libro è La nascita del libro di Lucien Febvre e Henri-Jean Martin, 430 pagine, 22 euro, tradotto da Carlo Pischedda e curato da Armando Petrucci. Questo è un grande e insuperato classico che ha dato vita a un grande filone di studi relativamente poco battuto in Italia, nel quale viene ripercorsa appunto la storia del libro a partire da la diffusione della carta che rese possibile il libro e poi naturalmente dall'invenzione della stampa, per poi toccare i temi dell'innovazione, della diffusione, dell'economia del libro, del commercio, della formazione di una nuova letteratura alla quale ha dato vita appunto il nuovo strumento chiamato libro, le nuove forme espressive e il rinnovamento della lingua che esso ha consentito. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di nuovi mezzi, di nuove tecnologie, allora torniamo a uno dei mezzi più antichi e più classici, il giornale per ragazzi, anzi parliamo del mitico Corriere dei Piccoli. Su questo giornale, tra il 1912 e il 1913, scrisse 6 pezzi, uno dei più grandi appartati poeti del Novecento, che di mestiere faceva l'avvocato, e cioè Delio Tessa, vissuto tra il 1886 e il 1939. Queste 6 storie sono state raccolte a cura di Mauro Novelli col titolo Gatti, Farfalle, Bimbi,